Presto sveglia, corre, ora un nuovo giorno aspettate. Prima che divenga sera, vieni e scopri tu il perché. Una rosa senza spine, no, non è impossibile. Una terra ancora in guerra, non è tollerabile. Ha incassato troppo a lungo i colpi come un pugile. Rintronato, frastornato dalle mille favole che hai sentito, assorbito, succube della TV e di qualche dio impazzito che non vuole che ora tu riconosca quelle stelle, che ora tu senta il grido di un ribelle che non vuole più che la sua vita resti ancora seppellita nella terra di quell'omertà che hanno conquistato con denaro, sangue, polvere da sparo i padri della nostra società. Che ora è tempo, oh, di cambiare, imparando a camminare senza più aspettare. Muoviti, muoviti, muoviti e con me non sarai più solo. Muoviti, muoviti, muoviti e con te raderemo al suolo. Ma la vita, corruzione, ambienti ormai intoccabili, di potenti e governanti ormai insostituibili, che han capito, hanno intuito di essere in pericolo, siano a destra, un po' a sinistra, al centro, dietro l'angolo. Ti hanno usato, imprigionato in rappresaglie stupide, fermi ad un semaforo a dipingersi la lapide. Rosso, verde, azzurro, nero, scegli cosa vuoi di più. Servi schiavi di un pensiero col terrore che ora tu riconosca le tue stelle, che ora tu segua quale tuo ribelle che non vuole più che la tua vita resti ancora seppellita nella terra di quell'omertà che hanno combattuto con passione, sangue, voglia e dedizione i martiri di questa società. Che ora è tempo, oh, di cambiare, cominciando a camminare senza più aspettare. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti con me. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti per te. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti con me. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti per te. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti. Presto sveglia, corri, ora un nuovo giorno aspettate. Prima che divenga sera, vieni e scopri tu il perché. Un paese libero per noi non è impossibile. Un futuro ancora oscuro non è più accettabile. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti con me. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti per te. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti con me. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti per te. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti con me. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti per te. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti con me. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti per te. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti. Loro non molleranno mai, ma gli conviene? Noi neppure.